frammento in ogni luogo visitato, un frammento per ogni persona incontrata, che esso si rigeneri. Che non ti ho mai prestato, per l'addio che era davanti a te, per conservare un accenno di te, che esso si rigeneri. Sia parte del mio moto, che esso si rigeneri. La mia personale idea di viaggio è quella che trascende ogni frontiera.